Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Benvenuti, Mangia come parli, settima puntata dedicata al pane. 349-238-6666 per i vostri sms, whatsapp, i vostri messaggi vocali e per l'SOS Oldani. Ma per me il pane, ciao, chef, ciao. Per me il pane è la rosetta, classico pane romano. Per me il pane è la michetta. Che è la michetta? La michetta è tipico pane milanese che ha rappresentato un po' la storia di Milano per quel poco che aveva da dire sul pane, ed è quella forma di pane vuota all'interno con una crosta ben croccante e particolare. Devo dire che non l'amavo all'inizio, e poi avendo visto l'evoluzione, parleremo molto di evoluzione di pani regionali e di come utilizzare il pane anche per delle ricette clamorose. Ma intanto do il benvenuto a un uomo che è anche un ristoratore, è anche un imprenditore del cibo e soprattutto è un grande amico, è un grande artista, Piero Chiambretti. Come va? Come va? Va molto bene, grazie. Ciao, ragazzi, Piero, buongiorno. Chiamato di sabato, grazie. L'unico giorno che riposo. Grazie. Sì, esatto. Però insomma, complimenti per Matrix. Ti seguiamo, ti guardiamo, siamo dei groupies. Ho famiglia. Hai famiglia. Senti, tu sei essenzialmente sei un ristoratore più che vero Piero? No, io diciamo che per hobby amo la ristorazione, ma non è proprio una professione. Ci sono un gruppo di amici barra soci che, dopo aver deciso insieme come affrontare la ristorazione un po' alternativa a Torino, ci siamo messi negli anni 90 ad aprire per scherzo un ristorante e poi siamo diventati magnati della ristorazione a Torino, avendone 5. Magnati participio passato, ovviamente. Chiaramente. Tutto è iniziato con Birilli, se non sbaglio, no? Sì, Birilli è stata secondo me una buona idea di marketing, perché a Torino fino a quell'epoca c'erano solo due grandi categorie di ristoranti: quelli super chic, vedi il cambio che ancora oggi rimane il numero uno tra i numeri uno in Italia, e dei ristoranti con quelle signore un po' robuste con le ciabatte. Non c'era la via di mezzo dove uno poteva mangiare senza spendere troppo, ma stando comunque in un ambiente superiore a un'osteria triste, magari con delle lampadine a pochi volt. E quindi abbiamo immaginato intanto un ristorante di questo tipo. Poi io ci ho messo del mio, perché penso che quando un personaggio più o meno pubblico o noto apra un ristorante, debba portare nel ristorante la propria anima e non soltanto il proprio nome, perché sennò la delusione di chi viene la prima volta, e la prima volta si viene unicamente per il nome del personaggio, decade immediatamente. Quindi ho detto: ragazzi, sapete che dobbiamo fare? Dobbiamo pensare alla cosa più importante che in un ristorante uno chiede, che non è solo il cibo, ma è la tradizione. Se un ristorante è aperto da anni, vuol dire che funziona. Quindi diamogli data di partenza che sia almeno di 80 anni prima. Così in un giorno abbiamo già 80 anni di tradizione. Di storia. E quindi l'abbiamo chiamato Birilli dal 1929. Esatto. Quindi confermi la regola di chi investe nella ristorazione può riuscire, anche se non è del mestiere. Perché adesso... La domanda è: ci hai guadagnato o ci hai rimesso oggi? No, ci ha guadagnato, perché si è aperto da quanti anni, Piero? Beh, il primo l'ho aperto nel 92, siamo ormai complimenti. Nel 2018. Quindi complimenti, poi è il tempo che dà ragione, in questo caso nella ristorazione, soprattutto in questo periodo non si perdona, gli ospiti, i clienti non perdonano più, evidentemente il lavoro fatto sul personaggio Piero e su quello che è la ricetta della classicità e della cucina regionale, credo anche piemontese, che tu fai, credo che premino alla lunga. Sì, non si può scherzare col cibo, una volta inventato il marketing, il locale, il menù e la location, bisogna dare da mangiare. E io ho avuto la fortuna di avere uno staff che nel tempo si è migliorato, in qualche caso è anche cambiato, ma che ha portato avanti un tipo di ristorazione per la quale tu spendevi esattamente quello che mangiavi. È giusto. Senti, tu sei un appassionato di pane, quanto pane mangi? Il pane mi piace moltissimo, però sarebbe una di quelle cose che nelle diete ti tolgono, quindi bisognerebbe mangiarne pochissimo. No, è regolare, ecco, sì. Quanto è il fabbisogno di pane un giorno, chef? No, Piero, rispondi tu, perché... Non lo so, il fabbisogno sarebbe una bacchetta, forse due, ma sono già tante, però ci spariamo anche i grissini, quello con le olive, quello con i capperi, quello con le noci, eccetera. Perché oggi la tradizione del pane è diventata un'esibizione di Rolex, perché il pane è diventato una cosa importante, ma una boutique. Ecco. Però è una boutique col giusto senso, perché tu sai che i pani adesso vengono fatti con lunghe lievitazioni, quindi ci vuole tempo, è tempo che viene dedicato per dare profumo e gusto al pane. C'è stato un periodo in cui il pane veniva bistrattato, cioè più lievito di birra e più velocità nella lievitazione, ci siamo accorti che invece la bontà e la caratteristica del pane che deve avere sono quelle dei profumi. I profumi vengono dati dalla lievitazione. Quindi anche dalla lievitazione si può fare qualità. Devo dire che una delle cose che io noto quando vado nei ristoranti è se c'è una cura del pane. Cioè, se c'è una cura del pane. Cura del pane deve essere. Ma è vero che i ristoratori però non vogliono dare troppo pane, perché sennò non si mangia troppo. No, no, no. Io devo dire che nel mio ristorante porto, giusto perché sono in Italia, sono italiano, il pane lo porto alla fine in abbinata al secondo piatto, perché reputo che un menù armonico e ben corretto, dove c'è un primo piatto, c'è un carboidrato, bisogna comunque fare un po' di attenzione. Allora il pane sta nella mia storia, nel mio DNA, lo faccio buono perché cuociamo il pane a mezzogiorno e alla sera, quindi abbiamo le cotture proprio prima del servizio. Allora. E quando lo diamo, diamo questo pane croccante, morbido all'interno, con questa forte acidità che appartiene un po' alla storia dell'Italia, da nord a sud. Certo. E anche in Piemonte. Piero, c'era. Ma invece il tuo piatto del cuore, uscendo per un attimo dal pane, cioè la cosa che... Ma è ovvio, lo spaghetto. Rigatore, non... Non riesco a scappare da lì, col pomodoro e basilico in prima, e poi vengono dietro tutte le altre misture possibili che vanno dal cacio e pepe, a te molto vicino. Sei una brava persona, sei una alla brava carbonara, persona. La matriciana con le zucchine, avanti. Un piatto, Piero, un piatto piemontese, visto che si parla di tradizione, si parla di territorio, che fai nei tuoi ristoranti, poi ti lasciamo al tuo sabato. Ma secondo me gli agnolotti al sugo d'arrosto sono un piatto vincente, o il vitello tonnato, di cui siamo portatori sani anche nelle giacche. Cioè, pensa, abbiamo proprio delle giacche di vitello tonnato. Vitello tonnato, alla fine, quando ti rimane un po' di salsa, prendi il tuo pane a fermentazione naturale, fai una bella scarpetta nel pane e poi vai. Puoi iniziare anche il sabato mattina con un vitello tonnato e pane. Scarpetta totale, stai lì un altro istante, ci dobbiamo fermare per il traffico e continuiamo. Mangia come parli. Mangia come parli, con il pane che è il tema del giorno, un tema anche filosofico, e poi parleremo anche dello spreco del pane quotidiano, del valore simbolico, pratico e anche religioso del pane, ma tutto questo fra un attimo. 349-238-6666 per il nostro SOS Oldani. A proposito di SOS, ma tu sei un imprenditore di successo nel settore, ma sei anche un bravo cuoco, un bravo chef, ti piace? No, io ho aperto i ristoranti per due motivi. Uno, perché a casa non avevo fino a qualche ora fa una cucina. E secondo, come perché qualche andavo ora fa? No, perché adesso ho cambiato casa e ho comprato una cucina con il forno e tutti gli oggetti. Quindi probabilmente comincerò da oggi, alla tarda età di 60, a cucinare. E quindi fino a pochi anni fa mangiavo sempre fuori e non trovavo mai un tavolo, ma in compenso dovevo firmare autografi e fare foto. Ho detto quasi mi apro il ristorante, faccio le firme, trovo da mangiare anche il tavolo. Certo, è una win-win, come dicono gli inglesi, no? Ci stavo anche con gli artisti, sai che andavano, c'era Giannino a Milano, dove c'era questa abitudine, i grandi artisti andavano e barattavano la cena per un pezzo d'arte. Uno di questi era Fontana, che frequentava Giannino, quindi puoi capire a che livelli siamo arrivati. Prima si parlava della grandezza del rigatone o dello spaghetto. Però tu mi devi sempre su rigatone e spaghetto. Parliamo un po' di pane. Parliamo di pane. Sempre carboidrato. Sempre. Allora, per esempio, la differenza fra il pane sciapo e il pane salato. Beh, è semplice. Qui sta nella cultura italiana. Il pane sciapo è un pane toscano che bisogna sicuramente rivalutarlo in maniera corretta, perché nella storia è sempre stato servito con degli insaccati o con dei prodotti molto sapidi, anche le zuppe stesse, quindi per evitare di abbondare di sale si faceva un pane sciapo, quindi con una lievitazione naturale, e poi lo si serviva, quindi il bilanciamento del sale e della sapidità era dettato dal fatto che c'era un insaccato. Quindi pane sciapo con i salumi. Devo dire che in Francia stanno rilanciando questa moda del pane sciapo, soprattutto nella Costa Azzurra, tentando di farlo loro. Ecco, mi dispiacerebbe che ci fosse un qualcosa che passa che ci fregano da noi a loro, come è successo nell'arte, come in altre cose, dovremmo, come la Corsica dice, ci fregano il pane come altre opere. Però direi che, rivalutato dai francesi, dovremmo spingere che sulla nostra Toscana, su questa idea di fare un pane puro di fermentazione naturale e addirittura sciapo, che ha un gusto nettamente diverso da tutto il resto d'Italia, bisogna tenerselo stretto. A salumi come andiamo, Piero? Non andiamo bene, però volevo dire che il pane francese con la baguette ogni tanto ci dà qualche gol, perché la baguette non riusciamo a farla. No, a parte quando la mettono sotto le ascelle, che se suda un po' in estate, è famoso ingrediente segreto. Credo della che baguette non vada bene. Ma la baguette ti piace dal punto di vista? La baguette è un pane con una farina bianca e una lievitazione un po' spinta con la poulie, dove c'è lievito di birra e farina bianca. Io non sono più del parere di utilizzare una farina bianca per mio gusto personale. Attenzione, tu ormai sei per il pane nero. Sono più per un pane nero. Ti racconto una piccola cosa che è successa a Parigi qualche anno fa, quando ero a vedere come si fa il pain campagne, il pane a fermentazione naturale a Parigi, come il lo fanno i francesi, il pane di campagna, famoso pain campagne. Ok, sì, questo sì, panettiere boulanger molto famoso mi dice: voi italiani siete speciali perché venite qui in Francia a imparare a fare questo tipo, questa tipologia di pane, quando noi lo cuciniamo addirittura in questi forni. Mi fece vedere questo forno con pietre e legna dentro, e c'era scritto forno romano. Ah. Quindi per dirti che noi un po' di storia, come nel vino, l'abbiamo persa. Ci stiamo riappropriando con le nuove generazioni. Assolutamente. Vabbè, ma insomma, la cultura del pane è straordinaria. Grazie a Piero Gambretti. L'abbracciamo, la verremo a trovare. Si mangi un grissino, sono neanche le 9:30. Si mangi un grissino alla nostra salute. E adesso, a proposito sempre di pane, beh, innanzitutto ricordiamo che c'è la segreteria telefonica 0246 524184, l'email mangiacomeparli@radio24.it, ma soprattutto il numero di WhatsApp 349 238 6666 per i vostri messaggi, le richieste d'aiuto, gli SOS al professor Oldani. Non è professore forse, ma è come se lo fosse, anzi forse lo è, Gianluca Pasini, titolare del Molino Pasini, da 80 anni proprietà della famiglia Pasini, provincia di Mantova. Benvenuto Gianluca. Grazie, ciao, buongiorno. Ciao Davide, buongiorno Pierluigi, buongiorno, piacere. Come va? Che cos'è il pane? Se dovessimo dare una definizione. Ma il pane, devo dire che se dovessimo dare una definizione lo definirei un alimento unico da rivalutare. Ecco, un elemento essenziale che deve essere sulla tavola di tutti noi, un alimento molto bistrattato sino al giorno d'oggi e molto diciamo combattuto, ma ultimamente sta diventando un po' più in voga, un po' più alla moda, ecco, quello sì. Gianluca, nel tuo settore, nel tuo mestiere, com'è cambiato il modo di far farina da 20, da 30 anni fa ad oggi? Cioè, io parlo di farina bianca e poi Pierluigi mi dice: ma a me piace quello con la farina scura, il nero integrale. Com'è? Perché andiamo alla base, naturalmente l'ingrediente principale del pane è la farina, quindi dacci due indicazioni su quello che è il cambiamento proprio della materia prima, del prodotto italiano. Ma devo dire che c'è stato un cambiamento epocale un po' dovuto anche alla richiesta del consumatore, mentre una volta tutti volevano le farine molto setacciate, quindi farine molto bianche, farine 00, al giorno d'oggi i consumatori chiedono farine più ricche di fibre, più scure, quindi meno setacciate, le famose farine tipo 1, tipo 2 di integrali, che non sono altre che farine più scure, che hanno più parti di fibre. È un fatto di gusto questa tendenza, o è un fatto invece, diciamo, più dal punto di vista nutrizionale? Cioè... Entrambi, devo dire, di gusto e di benessere. Di gusto perché ovviamente sono farine che riscoprono i valori, i profumi di una volta, nutrizionali perché effettivamente ci si è accorti che più andando al cuore del chicco del grano, più si impoverisce il prodotto farina, quindi farine con più parti cruscali e più fibre sono le farine più scure, quindi sono le farine che più conservano l'integrità del chicco di grano. Quindi è meglio il nero del bianco? È meglio il nero del bianco. If you try black, you never come back. Trovi il pane nero è una questione di gusto, però di sicuramente gusto, certo. È anche una questione etica nel rispetto di un prodotto qual è il grano, che insomma che ci dà quelle sensazioni, quella bontà che pochi altri ingredienti ci danno. Beh, il pane poi lo vedremo, ma ha un aspetto fortemente evocativo, no? Perché proprio c'è la cultura del non gettare il pane. Sappiamo che c'è il reso del pane. C'è il reso del pane. Questa notizia l'ho sentita forse un anno fa o più, dove ci sono alcuni gruppi che acquistano tanto pane senza calcolarne la possibilità di vendita, e poi c'è un reso alla fine della giornata. Calcolate quanto spreco c'è, e secondo me è anche contro quello che è una cultura moderna. Non è un caso che molte attività della GDO abbiano cominciato a produrre il pane nella giornata, la grande distribuzione, quindi grandi gruppi hanno cominciato a fare una produzione interna per garantire la qualità nella freschezza e garantire anche il non spreco. Grazie mille, e nell'abbracciarti abbracciamo tutti quelli che lavorano in questo settore, perché veramente i fornai che fanno il pane del mattino, che canzone era? Vabbè, poi dopo scegliamo anche una canzone legata al pane, ma c'è questo aspetto anche etico, no? Di questi forni che mi ricordano l'infanzia, di quando arrivi a scuola al mattino presto e che c'è questa gente sveglia dalle 4 del mattino. Sai che questo è cambiato un po', perché la tecnologia, grazie a Dio, ha aiutato anche questi mestieri. Quindi che adesso erano il pane molto si fa a ciclo duri. Continuo durante a ciclo il giorno. Continuo, ma soprattutto ci sono con la tecnologia dei forni, ci sono dei frigoriferi, ci sono dei conservatori, dei lievitatori soprattutto, che tu puoi preimpostare e con un'umidità controllata, con tutto quello che è la parte più tecnologica, si riesce a fare una preparazione anticipata, facendolo a lievitare lentamente per poi portarli a cottura. Quindi panettieri che si alzano ancora la notte ce ne sono, però ce ne sono molti altri che utilizzano questa tipologia, che è un plus per quello che è la qualità del pane. Senti, la ricetta, abbiamo un minuto e mezzo per cominciare, perché io oggi insomma ci tengo a far bene. Direi la ricetta, stiamo ancora su una ricetta che tu hai già assaggiato, pane, pepe nero, marsala e riso. Ah sì, questa l'ho assaggiata, solo non so da dove si comincia. Allora, pepe nero, marsala e riso, sì. Ok, 3-4 ingredienti, giusto? Sì. Più importante è il pane, perché quello che andiamo a mettere sopra, prendiamo del pane, lo facciamo seccare, lo grattugiamo. Ok. È semplice, poco sale nel caso. Sì. E lo teniamo da parte, che sia ben bruno questa tostatura. Sì, ben bruno. Bruna. Bruna. Ben bruno, sì. Ok, poi facciamo una riduzione di marsala. Sì. Sì, mezza bottiglia di 3 decilitri di marsala. Come si fa la riduzione del marsala? Si mette un fuoco molto basso in un pentolino, 3 decilitri di marsala secco, lo si fa ridurre fino a mezzo decilitro. Fino a mezzo decilitro. Okay. Quindi lentamente col fuoco sotto. Una volta che hai tu il pane, hai preparato il tuo marsala ridotto, prepari un riso come piace a me, quindi una cottura di un riso fatta con un po' di acqua e mantecato. Quindi senza soffritto, ovviamente, senza niente, proprio foglio bianco. Sto imparando. Fantastico, sarà in collega. Riso, poi. E poi lo togli dal fuoco, un po' di mantecatura a freddo, come intendo io, quindi una noce di burro leggera e pochissimo grana padano. Dopodiché tu metterai questo riso mantecato nel piatto, un goccio di questo marsala ridotto. Sì. E un po' di questo pane grattugiato. Okay. E la macinata di pepe sopra, facile. Quindi praticamente alla fine c'è il riso. C'è il pane. Al quale abbiamo aggiunto il pane grattugiato. E marsala. E marsala e un po' di pepe. E il pepe alla fine. Allora è un piatto trasversale, un piatto fatto a Milano che dedico un po' al sud dell'Italia, che è la Sicilia. Perché poi ti spiegherò, questo pane grattugiato in Sicilia è utilizzato anche per una pasta lunga come ami tu. E io sono pazzo. Non cacio e pepe. Sono pazzo del pane siciliano. Ne parliamo fra poco con i vostri ospiti. Fra poco, mangia come parli. Assenti, ma a loro modo presenti, impegnatissimi, ma che poi si impegnano ad esserci. Attenti, ma tanto distratti, volontarosi, ma un po' impacciati, autorevoli, ma anche giocherelloni. Federico, guarda che c'è una parola che riassume tutto questo. È padri. Ed è proprio di padri e ai padri che parleremo, per dare qualità al tempo passato con i figli, quindi anche al nostro. Padri casalinghi e padri incasinati, padri modello e padri single, padri separati, padri indaffarati, padri in pace con loro stessi, perché non ci sono né padri perfetti e né padri imperfetti. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia, la domenica alle 11 su Radio 24. Matteo, e le mamme? Per fortuna che ci sono. Mangia come parli. Ma chi l'ha fatto questa roba? Tu? Tutta io. Però già detto, io mi diletto di cucina, io faccio da mangiare per tutti in casa. Faccio da mangiare anche per Elio, per Elisa, per tutti. Ah sì? Certo. Vai pure, servo io, Ecco, vai pure Elio, che ci mettiamo d'accordo noi. Senti, ti comincio a servire le fettuccine alla San Giovannella, ti dispiace? Niente. Ti spiego anche come sono fatte, guarda, prosciutto e panna vanno mantecate molto bene, perché si deve amalgamare la panna e il prosciutto con... Prendo l'oliva, posso? Prendi pure l'oliva. Bentornati a Mangia come parli. Beh, le voci che avete ascoltato sono voci inconfondibili, sono voci che sanno di arte, di cultura, di passione, di tradizione, mentre la voce che state per sentire è quella di Gianmarco Tognazzi. Benvenuto. Come benvenuto, stai? Gianmarco, benvenuto. Ciao. Siamo colleghi perché anche tu ti occupi di cucina. Insomma, io mi occupo di cucina, dipende su che fronte, quello imprenditoriale con il vino più che di cucina, perché io mi sono concentrato su quella passione di Ugo che era il vino, e poi invece adesso sono tornato anche alla conduzione televisiva con un programma che è un game di cucina famosissimo in America, di cui abbiamo fatto la versione italiana per Food Network. Food Network, esatto. E insomma, vabbè, qualcuno ha parlato di anti-Masterchef, ma noi non siamo anti, insomma, però l'approccio pop è bello ed è positivo, e penso che c'entri molto col DNA della famiglia e con la passione di tuo padre. E col palato, immagino. E col palato ben educato. Hai un palato educato? Ce l'ho avuto, perché ho avuto la fortuna di crescere con un uomo che ha sposato la cucina, la passione per la cucina, in tempi non sospetti. Cioè, adesso è facile, lo fanno un po' tutti, certo. Ma Ugo iniziò questo percorso negli anni, metà degli anni 60, sul proprio integralista, si cucina solo le cose che provengono dalla mia terra, soltanto il mio vino, soltanto il mio olio, e poi tutte le sere la voglia di condividere, di fare il convivio intorno al quale poi intorno alla tavola nascevano anche meravigliose amicizie e film, perché la Grand Bouffe piuttosto che Amici Miei sono nati a tavola con Benvenuti, De Bernardi, Monicelli, Ferreri, quindi la tavola era il punto di riunione, sia per la famiglia, come capita sempre, ma anche per l'amicizia, lo stare insieme, certo. Era un modo di esibirsi, la convivialità che io ho cercato di riapplicare così nella mia vita in piccolo, non mettendomi dietro i fornelli, ma dando seguito a quella che è l'evoluzione di questa sua intuizione, che era la Tognazza, e quindi ho fatto questo percorso qua. Assolutamente, io ti devo dire la verità, che una delle cose più divertenti con Giorgio De Luca è stato ascoltare tante schegge, tante pillole. Io pensavo esattamente questa cosa, cioè che al di là dei suoi meriti storici dal punto di vista ovviamente artistico, cinematografico, è stato il primo vero grande divulgatore appassionato di cucina, e probabilmente in quegli anni ha reso la cucina, che sembrava una cosa banale e povera, invece in realtà cultura. Ti faccio sentire questo pezzettino con questa descrizione della maionese, ed è cinema, anche se siamo alla radio. Sentiamo. Il segreto, vede, è questa specie di moto perpetuo, questo girare continuamente senza mai stancarsi. La crema, questa maionese, che va girata così sul fondo di questa scodella, un cucchiaio di legno, lentamente ed in modo uniforme, altrimenti impazzisce. Sì, ma veramente... E impazzisce, sì. Sapesse quante me ne sono impazzite di maionesi prima d'ora. Ce ne sono ancora tre ricoverati in una casa di cura per malattie psichiatriche. Perché le maionesi possono... Puoi impazzire la maionese, chef. Certo che sì, quando tu metti più olio che tuorlo, quindi alla fine impazzisce poi a seconda delle temperature, però recuperarle poi è difficile. Quindi al di là della suggestione, diciamo, cinematografica, c'era una verità in questo. Assolutamente. Ma come te la cavi invece, Gianmarco, tu proprio nel cucinare? Cioè sei... No, te l'ho detto, io insomma, forse perché ho fatto lo stesso mestiere di mio padre, perché insomma, ho fatto l'attore, ho già molti punti in comune con lui, ho quasi avuto un blocco nel mettermi dietro i fornelli, non perché non mi diverta, anche se voglio dire ho molto meno tempo libero di quanto ne avesse lui, nel senso che oggi il lavoro è molto più complesso da recuperare rispetto sia alle sue possibilità che altro, quindi sei un po' più, come dire, in movimento, e quindi ho dedicato, come dire, l'estensione di Ugo a quell'altro settore, come ti ho detto. Tornando a vivere a Velletri mi sono rimesso su questa sua idea meravigliosa di avere tutto dalla sua terra, e come dicevi tu prima, ma appunto il fatto che lui l'ha fatto un grande anticipo rispetto a chiunque, e quindi questo, crescere in questo modo ti lascia comunque uno stile di vita, un modo di essere che io ho riadottato quando sono tornato a vivere a Velletri, e quindi ho preso quel lato. Dietro i fornelli ci sta più Ricky, esperta di ristoranti è più Maria Sole, io mi occupo della terra e dei prodotti, dell'evoluzione di quei prodotti della Tognazza, e Thomas, quando viene dalla Norvegia, si prende i prodotti da me, si fa portare ai ristoranti da Maria Sole, e Ricky io cucino. Nella vostra famiglia un menù tipico della domenica dove ci fosse incluso un pezzo di pane, che è un po' il ricordo della storia della nostra cultura? Quando andava pazzo per la ribollita. Vedi che il pane la fa da padrone poi. Sì, sì, sì, la ribollita, ma lui era anche un amante, come dire, del riutilizzo di quello che era appunto il cibo del giorno prima, e quindi anche il pane raffermo veniva poi riutilizzato per fare una serie di elaborazioni che potevano essere anche quelle della pappa col pomodoro, perché dicono che la pappa col pomodoro venga meglio nel momento in cui tu poi il pane che utilizzi per fare la pappa col pomodoro lo faccia con un pane che non sia un pane fresco. È vero, è vero. Invece Gianmarco, c'è un piatto, sei stato per esempio a Ischia recentemente a girare? No, sono proprio a Ischia. Sei ancora a Ischia? Ancora finito di girare adesso. Come va col coniglio all'ischitana? Come va? Il coniglio all'ischitana non l'ho ancora potuto assaggiare, perché abbiamo fatto le prime due settimane di lavoro, sono state molto impegnative, con orari molto impegnativi qui con Muccino, e quindi ancora, però c'è tempo perché siamo qui fino a novembre, quindi non ti preoccupare che andrò a fare il coniglio all'ischitana. E il piatto del cuore allora qual è? Piatto del cuore, ma sai, con Ugo era difficile, cambiava ogni giorno, quindi diventava difficile affezionarsi a qualcosa, anche perché le rielaborava e le rimetteva in discussione, un po' come sui suoi personaggi, no? Amava questo continuo cambiamento. Però io sono affezionato più o meno a due ricette, oltretutto anche abbastanza shocking, tipo le farfalle fucsia, sì. Le ho anche cucinate una volta dalla Parodi, perché le farfalle fucsia si fanno con la barbabietola rossa, con l'aggiunta di panna, o in questo caso panna vegetale se la vogliamo far diventare una ricetta un po' più leggera di quelle di una volta. Sai che Ugo, venendo dalla pianura padana, per lui la panna e il burro erano fondamentali, sacri, nella sua cucina. E unendo questi due elementi, cioè il bianco della panna con il rosso porpora delle barbabietole, nel mixer, dopo averle fatte soffriggere con della cipolla eccetera, si ottiene questo colore rosa, ma rosa shocking, come degli evidenziatori. E quindi è un piatto che dà, già negli anni Ottanta, dava quel colore, no? quella forza tipica poi dei colori eccentrici di quegli anni, dove lui, mettendoci sopra il basilico verde, creava questo contrasto di colori, e già allora pensava a cosa fosse l'importanza della presentazione del piatto, quando certo. Ancora in Italia questa cultura non c'era. Tra l'altro mi viene in mente che proprio questo weekend, questo del 21-22 ottobre, c'è la festa del salame a Cremona, quindi vedi che tutto torna, tutto è assolutamente questo è il mese di Ugo, poi oltretutto, certo. Perché il 27 è la ricorrenza della scomparsa di papà, e devo dire che a Cremona da più di 3-4 anni sia il Comitato Tognazzi che il Comune di Cremona dedicano praticamente tutta il mese di ottobre a cavallo con novembre a manifestazioni che ricordano Ugo. Quest'anno ci saranno dei filmati inediti che ho dato anch'io attraverso la famiglia, tutta la città si muove intorno a Ugo, e questa cosa è, devo dire, molto bella, e ringrazio ancora il sindaco Galimberti che ha fatto un lavoro straordinario e ne ha dato continuità, cioè non ha fatto una cosa che è rimasta lì un anno tanto per commemorare i 25 anni, si certo. Sta proseguendo, e questo secondo me è importante per il tramando della memoria. Ed è anche un segno di che uomo straordinario è stato. Grazie a Gianmarco Tognazzi, buon coniglio all'ischitana, dillo a Muccino, stasera andate a mangiare il coniglio all'ischitana. Io do il benvenuto a Luigi Rossi, che invece è il vicepresidente di Pane Quotidiano, perché il pane, lo dicevamo prima, ha un valore simbolico, etico, religioso, pratico. Il pane è il cibo nel mondo, ma c'è chi questo pane non ce l'ha, vero Luigi? Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, in effetti è proprio così, non tutti possono godere e beneficiare del pane quale alimento base per una corretta nutrizione. Ecco, c'è una fila tutte le mattine in Viale Toscana 28 e in Viale Monza 335 a Milano. Il dato dello scorso anno è impressionante, perché sono state distribuite 830.000, anzi più di 830.000 razioni di cibo e beni di conforto. Quanto è grande il disagio e come sta cambiando in una grande città come Milano, ma il discorso magari vale per altre parti del nostro paese. Insomma, lei ce lo può raccontare, c'è un miglioramento oppure no? Purtroppo c'è un miglioramento dei nostri ospiti intesi come numero, quindi un peggioramento della situazione, anche perché le razioni che distribuiremo nel 2017, a conti fatti, facendo un piccolo analisi di forecast, saranno circa su 1 milione. Quindi per cui sono aumentati gli indigenti. Sì. Ma la cosa più impressionante è che rispetto a parecchi anni fa, dove la popolazione che veniva Pane Quotidiano era composta circa dal 90% da cittadini extracomunitari, oggi il rapporto cittadini milanesi ed extracomunitari è un 60-40. Quindi abbiamo un 40% di cittadini milanesi che non arrivano alla fine del mese. Ecco, insomma, qui di solito si dice bene, in questo caso non si può dire bene perché sono notizie allarmanti, però si può ovviamente, poi ci sono mille cose belle, insomma, in giro per l'Italia. Due settimane fa c'è stato l'Open Day di Dinamo Camp, ci sono mille associazioni che fanno cose nobili, insomma, Pane Quotidiano è lì dal 1898, è un'organizzazione laica, è apolitica, è apartitica, l'unico obiettivo è quello di aiutare le persone nel gesto più quotidiano e più semplice che si può fare. Il cibo che recuperate, com'è tutta la trafila che fate per avere il cibo e servire questo cibo a queste persone? Noi abbiamo rapporti con le aziende produttrici di questi alimenti, quindi tra il panificatore piuttosto che ciechi da latte, formaggi, yogurt, salumi. Quindi sono prodotti freschi che vengono prodotti apposta per queste persone, mi conferma? Sì, nella di massima sì, diciamo che sono le eccedenze delle aziende che li producono, tenendo presente che secondo me queste eccedenze sono un po' volute proprio per aiutare queste persone indigenti. Okay. Grazie Luigi Rossi, complimenti Luigi. Per il vostro lavoro e per le tante organizzazioni no profit che ci sono in Italia. Noi oggi parlavamo di pane, qui il pane è nel nome di questa associazione, poi insomma il bisogno di nutrirsi è poi il punto di partenza della vita degli uomini ed è veramente impressionante sapere che a pochi passi anche da noi, da dove vi parliamo in questo momento, ci sono situazioni di questo tipo. Fra poco Mangia Come Parli, vi ricordo 349-238-6666, sarà il momento dell'SOS Soldani e sarà anche il momento della ricetta della tua ricetta. So dolore. Entra nel mondo radiofonico e televisivo con le nuove competenze 4.0. Master full time della Business School del Sole 24 Ore e Radio 24. Radio, TV e web content. Con diploma e stage. A Milano dal 27 novembre. Per candidarsi alle selezioni e borse di studio, www.radiomaster.ilsole24ore.com. Mangia come parli, siamo quasi al momento dell'SOS Soldani, ma io ho ancora mille curiosità legate al pane. Per esempio, è vero che tu fai il gelato di pane, come si fa? Vero, verissimo, mettiamo, ammorbidisco del pane, prevalentemente un pane integrale, quello più chiaro dell'integrale, lo ammorbidisco con un po' di latte, metto un po' di zucchero, a volte aggiungo anche del cacao. E frullo tutto e poi metto a congelare o metto a mantecare, quindi qui ottiene un pane molto cremoso che ha un gelato molto cremoso che ha questo profumo di sentore di pane, sempre naturalmente utilizzando un pane a fermentazione naturale che ha profumi esageratamente diversi da un pane bianco. Assolutamente. Senti, invece, perché spesso il pane dopo, non voglio dire dopo due ore, ma insomma dopo un po', cioè, mi si incupisce, mi dà quel senso. Questo è il brutto modo che si era preso un po' di anni fa e adesso grazie a Dio sta cambiando per il metodo di lievitazione. La lievitazione, il pane costa di più alcune volte perché c'è una lievitazione molto più lunga. Quindi si impiega, nel mio ristorante impieghiamo dalle 12 alle 14 ore per lievitare. Quindi capisci che il tempo è danaro. Quindi è per questo motivo che il pane a lunga lievitazione ha un costo diverso, un costo maggiore, ha un profumo diverso e soprattutto ha una stabilità maggiore nel tempo. Il mio pane può resistere, io lo cucino a mezzogiorno e sera, ma può resistere 2, 3, 4 giorni senza nessun problema. Quello bianco che tu prendi e vedi che dopo 3, 4, 5, 6 ore diventa secco è perché c'è una lievitazione un po' più spinta, dove il lievito di birra in abbondanza, tipo 30 grammi su un chilo di farina, che, sì, è, una, che è, troppo. È un'enormità, si fa una produzione molto ampia, però poi il risultato di qualità va a decadere. E c'è anche un botto di messaggi per questo momento. SOS Oldani. SOS Oldani. Federica da Roma, eccola. Salve chef, qual è il segreto per cucinare un'ottima lasagna? Sicuramente la pasta che sia fine, un buon ragù, io consiglierei di carne di vitello e manzo al massimo mischiata, e poi la cosa più importante è quando arrivi all'ultimo strato che non ci siano, sai, quegli spuntoni di pasta che escono e poi si bruciano e diventano croccanti e non buoni, quindi che sia ben coperto tutto con il grana, con il ragù, con il tocco di besciamella, sempre poco. E quindi questo credo sia il segreto più importante. Giacomo da Caserta. Salve chef, allora io c'ho un forte dubbio, a me molti dicono che per non piangere quando si taglia la cipolla bisogna sciacquarla sotto l'acqua, soltanto che io continuo a piangere. Lei ha un rimedio per questa cosa? Come posso fare? Giacomo è, non no, è che piccolo... sei triste, Giacomo, sei sentimentale, crepuscolare. No, un piccolo trucco è quando si taglia la cipolla, naturalmente provare a soffiare leggermente, anzitutto va tagliata velocemente, però soffiare leggermente sulle mani e sul coltello, perché quella parte volatile che ha la cipolla naturalmente in modo o nell'altro arriva agli occhi. Allora, se vogliamo resistere un secondo in più, proviamo a soffiare leggermente intanto che tagliamo. Esatto. E poi guardiamo intanto dei film divertenti che ci fanno passare il piano. Monica da Verona. Salve chef, in quali occasioni il formaggio può essere accostato al pesce, se ce ne sono? Ma parlavamo ancora scorsa, in alcune puntate di Alice, formaggio, pecorino. Ma questo perché tu sei un godurioso e quindi, certo, fai questi abbinamenti azzardati, non perché tu sia un grande chef, scherzo. No, io direi che si può, si può provare, ma con un giusto criterio. Magari io lo abbinerei a un mollusco, un formaggio appena grattugiato, che un pecorino mi viene in mente, o un formaggio di fossa, ecco, grattugiato leggermente su un pezzo di polpo arrostito, potrebbe starci. Assolutamente. Paolo da Rimini. Ma è vero che quando si devono preparare i legumi bisogna metterli a mollo 24 ore prima, 12 ore prima, e anche qualcuno suggerisce di metterli in ammollo con il bicarbonato per renderli più morbidi e di miglior sapore? È vero, è una sorella che tanti praticano, secondo me è inutile farla. Io consiglierei assolutamente una pentola a pressione, che è quella che con la più alta temperatura impiega minor tempo, quindi meno tempo si mette sul fuoco un prodotto e più caratteristiche organolettiche mantiene. Ti ringrazio, perché io sto ancora lì essiccando il baccalà di 3 settimane fa. C'ho la casa che sta ancora di baccalà, poi del resto sono c'è già Simone. Simona, la tua ricetta, no, dopo Simona, la tua ricetta, giusto, ti stai ancora preparando. No, facciamo la ricetta. Tanto già si ascolta la ricetta, vai. Simo? Sì? Tutto bene? Simona, tutto ciao. Tutto bene, grazie. Ciao. Comincia ad arrivare i messaggi su social network. Momento Sandra e Raimondo, dicono, Tu vestiti da Sandra. Perché non vedo la casa. Esatto. Tu vestiti da Sandra che io faccio il tuo Raimondo. Ecco, questa è Calcutta. Questa è... No, perché devi mettere giù? Allora, la ricetta di questo weekend è... Il quale però, insomma, va da Udine, perché vabbè. La ricetta è questa qua: pane, pepe nero, marsala e riso. Sì. Una cosa poi semplice. Vorrei chiedere a Simona anche una sua ricetta per però sul questo pane, Simona, è il mio momento. Che si offende. Allora, che cosa succede? Partiamo dal pane. Il pane lo secchiamo e lo grattugiamo con poco sale. Facciamo in modo che sia ben bruno. Che sia ben bruno questo pane grattugiato. Poi che facciamo? La riduzione del marsala. Come si fa la riduzione del marsala? È semplicissimo. Prendiamo 3 decilitri di marsala, fuoco basso, e li facciamo diventare mezzo decilitro. Uno sciroppo, un sesto. Bravo, ci siamo. Nel frattempo io tratterò il mio riso. Adesso sto cominciando a fare i gesti come Oldani. Il mio riso, lo sapete, io non faccio il soffritto. Per me il riso è un foglio bianco, quindi lo cuocio solo con acqua e poi procedo a una grande mantecatura. Perfetto, non grande, una leggera mantecatura. No, grande, volevo darmi un po' di aria. La mantecatura, cioè, quindi unisco queste cose qui. Avrò il mio riso, avrò il pane grattugiato, avrò la riduzione di marsala e poi aggiungo una noce di burro e del grana padano appoggiato lì e tanto pepe nero. Come sono andato? Bene. Era facile, sia chiaro. No, gliel'ho spiegata. Poi sai, l'ha mangiata tante volte. L'ho mangiata e piace molto. Simona, il tema è il pane. Cosa ci dici da pasticcera? Cosa ci consigli? Vi consiglio la torta di pane o la torta paesana, che è anche proprio della mia terra, lombarda, la ricetta lombarda. Perché sei lombarda? Vediamo se è uguale alla mia. Sì, ho sposato una lombarda. Io ultimamente ho una versione semplificata, nel senso che metto a mollo nel latte leggermente tiepido, il pane è avanzato dal giorno prima, oppure lo compro apposta se ho voglia della torta di pane. E lo lascio in infusione nel latte bollente, cioè leggermente caldo, mezz'oretta. Poi lo metto nel mix e frullo insieme a zucchero, uova e cacao in polvere. Dopodiché metto una manciata di amaretti sbriciolati grossolani, l'uvetta mollata precedentemente in acqua e rum e un po' di pinoli. Questa è la mia versione, non cuoci so la tua. In forno, cuoci in forno. È abbastanza, un 40 minuti abbondanti a 180 gradi, perfetto. Anche un'oretta, dipende. Va bene, siete addivenuti a un accordo? Tutto a posto? Sì, assolutamente. Io stavo già andando a casa a seccare il pane. Ce la puoi ripetere la ricetta? Stavo già pensando alla riduzione di Marsala. Invece no, è il momento della canzone. Ciao, ciao Simo. Ciao Simo. Ciao, ciao Vittoretta. Ciao, ci vediamo dopo. Pane e castagne, perché mi piace ricordare questo De Gregori dell'87, una canzone abbastanza sconosciuta di De Gregori, di una tristezza inenarrabile, in un album piuttosto triste, dal canto delle sirene ai matti a nero, e qui insomma ci sono queste tastiere elettriche, questo quadro di povertà, insomma, ricordo un po' quello di cui ci parlava Luigi Rossi. Pane e castagne, 1987, Francesco De Gregori. Mangiamo pane e castagne in questo chiaro di luna, le mani ben ancorate su questa linea, domani ce lo diranno dove dobbiamo andare, domani ce lo diranno cosa dobbiamo fare. Questo dunque era Francesco De Gregori, puntata sul pane, sulle castagne, magari delle castagne ne parleremo un'altra volta. Chef, grazie di tutto, grandi come sempre. Cose, grandi informazioni. Mi diverto proprio, erano come quel film, erano anni che non mi divertivo così. Poi mi presenterò con un dolce per te un sabato mattina. Va bene, 349-238-6666, continuate a mandarci i vostri SS Soldani e la prossima settimana parleremo di qualcos'altro, non so ancora cosa, ma sarà comunque una libidine. Ciao! Ciao!